a te nulla di gol potrà. L'inferno vira po', l'inferno vira po', nulla di gol potrà. L'inferno vira po', l'inferno vira po'. Dove l'odor combatti, nulla di gol potrà, nulla di gol potrà, l'inferno vira po'. Dove l'odor combatti, nulla di gol potrà, l'inferno vira po', l'inferno vira po'. Le pietà s'abbatte contro de suo rigor, contro de suo rigor, congiura il fato, contro de suo rigor, congiura il fato. Dove l'odor combatte, nulla di gol potrà, l'inferno irà po', l'inferno irà po', nulla di gol potrà, l'inferno irà po', l'inferno irà po'. Dove l'odor combatte, nulla di gol potrà, nulla di gol potrà, l'inferno irà po'. Dove lo combatti, nulla di gol potrà, l'inferno irà po'.